Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio. Ritorniamo ancora a cavalcare la cronaca. In questi giorni ovviamente le circostanze ce lo impongono, il quadro di mercato è piuttosto difficile. Ieri abbiamo avuto la prova di quanto panico stia circolando fra gli investitori di tutto il mondo, e figuriamo cosa può succedere fra i piccoli investitori che in questo momento si stanno letteralmente chiedendo che cosa faccio del mio denaro. Addirittura ci sono molti dubbi sulla stabilità della propria banca, quella magari alla quale ci si è rivolti da tutta la vita. Per cui oggi ritorniamo su questo tema, speriamo per rasserenare l'animo di tutti quelli che ci ascoltano, per cercare di capire cosa fare in questo momento, cosa stanno facendo i gestori degli investimenti, coloro che gestiscono grandi patrimoni. Per cui insomma, se loro hanno una visione chiara rispetto alla situazione, magari questo può aiutarci a confortarci. E spieghiamo anche poi quello che è successo ieri, lo racconteremo di nuovo, spiegando anche quello che sta accadendo questa mattina, perché insomma, dopo i tracolli di ieri che hanno visto le borse bruciare su scala internazionale più di 2.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, è chiaro che oggi ci si aspettava un rimbalzo generale. Questo non sta accadendo, accade solo su alcune piazze, perlomeno le borse stamattina tentavano di rimbalzare, un rimbalzo che è già fallito. Resiste Parigi, che sta guadagnando lo 0,67%, Francoforte sta perdendo lo 0,45%, Londra perde lo 0,3% e la piazza più pesante è Piazza Affari, che perde lo 0,78% sull'S&P MIB. In realtà si stanno risollevando dai minimi di seduta che erano già stati raggiunti, ma in ogni caso anche stamattina possiamo documentare e testimoniare la massima incertezza che regna sovrana nell'atteggiamento degli investitori, degli operatori di mercato, fra tutti e figuriamoci insomma tra di noi. Allora ritorniamo su questo argomento stamattina con Emilio Franco, direttore investimenti di Ubipra America. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno anche in collegamento telefonico con noi con Massimo Fuggetta, responsabile investimenti di Horatius Sim. Fuggetta, benvenuto. Buongiorno. E abbiamo interpellato anche Marco Lo Conte, collega del Sole 24 Ore, più esattamente il Plus 24, ma per il quotidiano questa mattina ha scritto i 10 consigli per il risparmio garantito. Marco, benvenuto. Buongiorno a tutti. 800 24 0024 è il numero verde per i vostri interventi, le domande che vi sentite di fare, lo so bene, ci stanno arrivando all'indirizzo di posta elettronica di Salva Danaio, ma ormai a tutte le trasmissioni sono molte, e allora cominceremo naturalmente subito a sentirvi. Prima di tutto però ritorniamo su quello che è successo ieri sui mercati e su questa non risposta di questa mattina, questo non rimbalzo di questa mattina. Emilio Franco, ancora benvenuto. La domanda che le ho rivolto prima a microfoni spenti era molto sincera, ma gliela rifaccio di nuovo. Siete preoccupati di quello che sta accadendo? Diciamo, non si può rimanere indifferenti dinanzi a eventi così impegnativi e complicati per l'economia mondiale e per i sistemi finanziari, quindi siamo ragionevolmente preoccupati, nel senso che responsabilmente siamo i soggetti a cui i risparmiatori affidano una vita di risparmio, e quindi abbiamo il dovere di affrontare situazioni come queste con il massimo senso della responsabilità e la capacità di analizzare in maniera razionale, anche in momenti di forte tensione, gli accadimenti. Siamo relativamente preoccupati perché la situazione è estremamente complicata. Quello a cui abbiamo assistito recentemente è un acutizzarsi della crisi finanziaria che si sovrappone ad una crisi macroeconomica, ad una decelerazione macroeconomica già molto marcata. E quanto sta avvenendo con la chiusura completa del mercato interbancario in questo momento, con il passare del tempo, se non viene sbloccata questa situazione, è destinata ad avere ripercussioni molto significative sulla crescita. Quindi sull'economia reale, come noi amiamo dire, sulla manifattura. Sull'economia reale, sulla manifattura. Io direi che adesso se ne legge ancora poco, ma uno degli aspetti assolutamente preoccupanti che i policy maker in questo momento devono affrontare è il fatto che non solo le banche non si stanno prestando fra di loro, questo purtroppo è un evento che è cominciato ad agosto dell'anno scorso e che si è via via acutizzato ed è peggiorato moltissimo negli ultimi tempi, ma ci sono altri mercati di finanziamento a breve termine cui accedono le imprese non finanziarie, quello della carta commerciale, che è fondamentale per la sopravvivenza delle imprese, che hanno sempre in una struttura di funding una componente a breve che è destinata a finanziare necessità di cassa, come per esempio il magazzino circolante, che in questo momento hanno il mercato completamente chiuso. Nell'ultima settimana questo mercato è calato negli Stati Uniti di oltre 200 miliardi di dollari. Quindi se gli interventi non saranno decisi per affrontare a 360 gradi i problemi che abbiamo davanti, che sono problemi di liquidità delle banche in primis, ma che si stanno trasformando in problemi di liquidità per le imprese non finanziarie, quindi potremmo vedere dei default di imprese non finanziarie se questi problemi non venissero affrontati, e ovviamente come backdrop il problema della solvency, della solvibilità degli istituti finanziari, che è un problema diciamo di più medio termine, no? Rispetto al problema della liquidità, che è il cortocircuito che ha ucciso Lehman e che ha fatto saltare numerose istituzioni finanziarie recentemente. Ecco, allora la situazione rischia un pericoloso avvitamento. Tanto per confermare quello che lei ci sta dicendo, le mie colleghe della redazione mi segnalano che abbiamo un ennesimo record per i tassi interbancari in euro. L'Euribor sulla scadenza a tre mesi è salito di nuovo al 5,38%, abbiamo l'ottavo record consecutivo, quindi segnato proprio in otto sedute di mercato consecutive, in rialzo anche quello ad una settimana. Allora, Massimo Fuggetta, responsabile investimenti Horatius Sim, abbiamo raccontato per lungo e per largo anche la giornata di Piazza Affari ieri, molto pesante per un credito. Abbiamo quasi esclusivamente, ma non tanto, focalizzato l'attenzione su Piazza Corduzio, che era reduce dal varo di questo maxi aumento di capitale del fine settimana, però insomma poi ieri abbiamo visto come in realtà Unicredit sia stato solo uno dei tanti casi di mercato. Per la verità ieri a pagare sono stati tutti i titoli bancari, ma insomma la discesa ha riguardato tutti. Quello che le chiedo però è come mai secondo lei questa mattina Milano sta amplificando, anche se la situazione sta cambiando, vedo adesso in diretta, ha amplificato il calo di tutto il resto d'Europa, esattamente come per larga parte della seduta aveva fatto ieri, anche se poi la peggior piazza d'Europa, se lo ricordo male, è stata Parigi, che ha messo a segno questo ribasso del 9%. Fuggetta, è sempre per la composizione del listino fortemente sbilanciata nel settore bancario? Sì, direi di sì, non credo ci siano componenti più specifiche a spiegare questa discrepanza di andamento, che comunque mi sembra abbastanza limitata. Non direi che ci sono gli estremi per focalizzarsi su un'analisi così specifica. Certo, Unicredit è ancora al centro di una situazione abbastanza critica, per cui spinge il settore è giù ancora oggi del 6%, spinge il settore in giù, però per esempio Intesa San Paolo, che aveva sofferto anche negli ultimi giorni, adesso è su del 3%, per cui non direi che ci sono cose specifiche su cui focalizzare. Insomma, oggi il mercato riesce a fare quello che non ha fatto ieri, a fare un po' di selezione, perché probabilmente non è possibile che poi tutti i titoli del settore finanziario, magari su questo aspetto ci torniamo nel corso della trasmissione, scendano in maniera pesante tutti nella stessa misura. Franco voleva aggiungere qualcosa su questo? Sì, diciamo c'è un tema che sta emergendo nella discussione, specialmente in Inghilterra in questo momento, in questi giorni. Qui i tempi corrono rapidissimi e sappiamo che il cancelliere dello scacchiere ha intenzione di presentare forse questa settimana il suo piano di intervento, il piano inglese di intervento per risolvere i problemi finanziari. Anche se questo governo continua a smentirlo, ma insomma ci raccontano che deve essere fatto così, insomma, per arginare eventuali altre speculazioni in altri sensi. Sì, è molto interessante, però lo strumento che è rumoreggiato essere quello scelto da Darling, oggi c'erano ieri anche articoli sul Financial Times, su altri giornali, Daily Telegraph, la soluzione sarebbe, o meglio l'intervento, sperando che sia una soluzione, è quella adottata dal governo svedese durante la crisi dei primi anni 90, che passa per una ricapitalizzazione delle banche. Ricapitalizzare le banche significa ovviamente con denaro pubblico diluire pesantemente gli azionisti esistenti, e quindi oggi la giornata, che era partita in modo diciamo positivo dopo sicuramente l'overshooting europeo di ieri, no? Perché gli Stati Uniti in realtà poi nelle ultime due ore di trading hanno parzialmente recuperato dei minimi, e dopo questi primi tentativi di rimbalzo il mercato ha cominciato ad essere molto aggressivo su nomi bancari, specialmente inglesi. Adesso, quando io sono uscito dall'ufficio, Royal Bank of Scotland per esempio, che tra le tre grandi banche inglesi è quella la cui diluizione nel caso di 15 miliardi di sterline di aumento di capitale sarebbe estremamente pesante, all'ordine del 40%, perdeva appunto oltre il 30%, e questo quindi ha un po' si è esteso poi alle banche percepite come più fragili, no? Quindi prima leggeva il dato del DAX comunque negativo, tra i peggiori listini d'Europa. Avevamo sia Deutsche Bank che Commerzbank che perdevano oltre il 10%. E purtroppo, e questo è l'elemento che ci sorprende un pochino di più, tra le banche irlandesi scendevano molto pesantemente, sempre per, diciamo, trasferimento della stessa potenziale soluzione ad altri paesi europei. Unicredit in realtà, dopo l'annuncio dell'aumento di capitale, dovrebbe essere uscito dal club delle banche percepite come più fragili, anche perché i fondamentali oggettivamente con un core tier 1 al 6-7% non giustificano un trattamento. No, tra l'altro, a proposito di solidità e di ratio patrimoniali, questa mattina sono uscite anche con dei comunicati stampa Monte dei Paschi, il Banco Popolare, per assicurare appunto sui loro requisiti. Detto questo, forse questa mattina per Unicredit ha pesato un po' anche questa intervista rilasciata su Repubblica dall'amministratore delegato Alessandro Profumo, che comunque ha ammesso abbiamo fatto degli errori e quindi ha come dire, proprio ammesso con grande chiarezza, con grande trasparenza, che forse hanno fatto in passato un passo più lungo dalla, come dire, il passo più lungo, non è tanto d'accordo, però lui lo ammette, dice forse anche la grande nostra espansione all'estero in Germania, anche l'acquisizione di capitale, abbiamo fatto tutto insieme e sottovalutando nettamente quello che stava accadendo intorno a noi, Franco, però è così, magari poi ci torniamo. Però adesso, siccome tutto questo è sicuramente molto affascinante, ma molti ascoltatori guardano con distacco a quello che per esempio accade da parte del governo britannico, quello che sta facendo la Germania, guardano inevitabilmente un po' più in casa propria, guardano i propri risparmi e come possono essere salvaguardati in questo momento. Allora aprirei i microfoni ai nostri amici che ci seguono da casa, che ci chiamano all'800 24 00 24. Metto insieme un paio di domande che poi giro a Marco Lo Conte, e quindi cominciamo con un Marco che è quello da Verona. Marco, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Era una domanda precisa che volevo fare, relativa alla scelta fatta qualche mese fa del mio TFR. Tolto dalla maniera tradizionale e naturalmente dato in gestione, no? L'ha destinato ad un fondo pensione. Esattamente. È un fondo chiuso o un fondo aperto, anche se insomma in questa situazione non cambia niente? No, per così, per curiosità, Marco. Aperto? Sì. Aperto. E volevo capire quanto è tutelato, se più o meno rispetto a prima, e seconda domanda strettamente collegata, se è possibile un ritorno a come era prima. Proteggere eventualmente. Se può tornare alla forma, beh, allora questo è un problema aperto che probabilmente magari verrà risolto in futuro. Detto questo, Marco, un'altra cosa volevo sapere: sa su che linea è stato investito il suo fondo? Ha scelto una linea di investimento? Lei sì? Sì, con una linea equilibrata, come si dice? Bilanciata, quindi. Bilanciata, sì, grazie. Grazie Marco. Mi metto insieme anche Giuseppe da Roma, così diamo un po' voce a tutte le vostre preoccupazioni di questo momento. Giuseppe, benvenuto. Sì, buongiorno. Senta, io sono un correntista Unicredit, ho un mutuo sulla casa, un mutuo ipotecario sempre con Unicredit, e ho fatto recentemente un pronti controtermine sempre a Unicredit, che è investito credo in CTZ, sì, con scadenza... il mio investimento a metà novembre 2008, invece il CTZ totale a dicembre 2009. Allora volevo capire un attimino che rischi posso correre per questi pronti controtermine, e se ci sono invece eventualmente, nella peggiore delle ipotesi, che l'Unicredit fallisse, che fine fa il mio mutuo. Allora Giuseppe, io la ringrazio. Detto che questa ipotesi è assolutamente lontana da ogni ipotesi, non mi viene neanche il termine, però insomma in questo momento non c'è neanche minimamente all'ordine del giorno una preoccupazione di questo tipo nel nostro paese. Però visto che non facciamo che raccontarvi di questo titolo che va e viene da una parte all'altra, la classifica del listino insomma è sull'otto volante in questi giorni, probabilmente insomma molti di voi sono pervasi anche da questo dubbio. Comunque cominciamo con il fondo pensione. Marco Lo Conte, nei 10 consigli per il risparmio garantito, all'ultimo punto hai messo anche proprio le rassicurazioni sulla previdenza complementare. Diciamo che la crisi attuale non ha modificato comunque lo standard di garanzie che già attenevano insomma a questo settore. Allora, il denaro conferito in un fondo pensione viene destinato dal fondo stesso ad un altro gestore, o nel caso del fondo aperto spesso viene gestito in house dal fondo pensione, cioè dalla banca o dalla compagnia che lo emette, e si trova in un patrimonio separato, in un patrimonio segregato, cioè non è nel patrimonio della banca, ma viene messo in un conto previdenziale da una parte, insomma, separato, e quindi non viene punito dalla possibile insolvenza, dai problemi che possono ingenerarsi su quella banca, proprio perché si trova, viene custodito di solito, per quanto riguarda i fondi pensione negoziali, da una banca depositaria esterna a cui viene affidato un mandato, per cui è altrove, insomma, per cui non c'è un rischio che si corre. Più o meno sicuro di prima? Beh, allora, il TFR, se lasciato in azienda, viene lasciato in azienda. Se l'azienda, come purtroppo a volte succede, fallisce, scatta la tutela di un fondo di garanzia. La tutela di un fondo di garanzia, ricordo proprio in una trasmissione di Salvadanaio qualche mese fa con Alberto Brambilla, che oltre a essere il padre della riforma del TFR, esatto, oltre a essere attivo nel nucleo di valutazione della spesa previdenziale, è uno dei massimi esperti di previdenza in Italia, ricordava come era accaduto più volte che all'interno, che l'INPS, che gestisce questo fondo di garanzia del TFR delle imprese, non sia riuscito a dare cash tutto il TFR ai lavoratori delle imprese andate in fallimento, ma che abbiano l'INPS ha dovuto dare a rate, insomma, prima il 10%, poi il 20%. Insomma, ci sono elementi di farraginosità o quantomeno di lentezza nella garanzia, nell'ottemperamento della garanzia anche del TFR che si tiene in azienda. Questo per completezza dell'informazione. Per quanto riguarda il conto corrente di una banca. No, c'era un'altra domanda che Marco faceva. Sì. Lui dice ha fatto di recente la scelta di dirottare il TFR al fondo di previdenza complementare. Sì. Lui dice però, insomma, visto che mi sono un po' spaventato da quello che è successo, posso tornare indietro. Al momento la legge non lo consente. Al momento non lo consente. Il ministro del welfare Sacconi ha detto che è una delle ipotesi allo studio e sono state indicate questa ed altre ipotesi nel libro verde che hanno presentato, che è stato presentato a luglio. Se evidentemente cambia lavoro il nostro ascoltatore, può riscattare il tutto quanto accumulato fino adesso, può comunque chiedere delle anticipazioni, può comunque avere la possibilità di avere cash il proprio denaro se ha più di 8 anni per spese mediche, di permanenza, spese mediche, ristrutturazione della casa, o per nel limite del 30% in qualsiasi momento. Allora, conti invece corrente. Unicredit, conto corrente mutuo, ma cominciamo con il pronto controtermine, che invece è il grande oggetto di molti interrogativi da parte di molti ascoltatori. Insomma, che cosa sono questi prodotti e se io li avessi fatti con Unicredit in questo momento corro dei rischi, ma non c'entra niente. Insomma, emessi da una banca, hanno come dentro, all'interno, una garanzia di un soggetto. La banca si fa carico della garanzia, per cui dovesse esserci un pronto controtermine legato a Lehman Brothers, no, dovesse essere stato fatto in passato, la banca garantisce la liquidità e in caso dovesse fallire la Lehman Brothers della situazione, è la banca che ne subisce. Però generalmente i sottostanti, sì, Franco voleva intervenire, di questi prodotti sono titoli di Stato. Esatto, cioè sono strumenti di grande liquidità, hanno 3 mesi di vita in genere, sono come dire, a pronti e a termine. Infatti. E sono di brevissimo, saranno per il parcheggio della liquidità. In nella fattispecie citava un CTZ, credo, Giuseppe da Roma. Emilio Franco. Sì, no, io quello che percepisco da queste domande, ma mi rendo conto, no? È questa grande agitazione, questo dubbio che prende tutti nei confronti di qualsiasi istituzione. Ora, stiamo ai fatti, no? Allora, non abbiamo avuto nel mondo fino adesso, nonostante la crisi abbia mietuto vittime anche eccellenti, un solo depositante che abbia perso soldi. Perché? Perché le autorità di politica economica, le autorità monetarie in giro per il mondo, in primis la Fed, ma non solo, perché abbiamo visto le stesse cose fare in Belgio, Olanda, Lussemburgo, con Fortis, sanno benissimo che è importante mantenere e proteggere la base di depositi retail al dettaglio delle famiglie. Richiamo all'ordine i nostri ospiti di questa mattina in studio, in particolar modo perché Massimo Fuggetta, responsabile investimenti di Orazio Sim, è al telefono, Emilio Franco, direttore investimenti di UBI per America, e Marco Loconte, collega di Plus 24. Stavamo facendo il punto della situazione dopo l'ennesima telefonata di un ascoltatore preoccupato, perché dice al mutuo con Unicredit, al conto con Unicredit, ha dei pronti controtermine sottoscritti con Unicredit. Detto questo, abbiamo cercato di rassicurare al massimo il nostro ascoltatore sull'ipotesi assolutamente improbabile che ci siano un fallimento appunto alle porte per la nostra prima banca italiana, ma sicuramente leader in Europa. Emilio Franco, lo stavamo rassicurando, oltre però alle rassicurazioni, come dire, l'input che volevamo dare è anche dare, come lei diceva, il senso giusto alle proporzioni. Sì, no, io stavo dicendo questo, che insomma stiamo ai fatti, ad oggi abbiamo visto molti caduti eccellenti, inutile farne i nomi, li abbiamo letti sui giornali e tutto, però non ci sono depositanti che abbiano perso soldi. Questo perché le autorità di politica monetaria conoscono bene l'importanza della stabilità della base dei depositi retail, e quindi là dove non c'erano garanzie, come per esempio ci sono in Italia, no? Dove sono protetti oltre 100.000 euro nell'eventualità di un default, molti stati le stanno introducendo, e anche nell'ultimo provvedimento che il Congresso ha passato, il cosiddetto TARP, questi provvedimenti eccezionali, tra le tante condizioni o le novità che sono state introdotte c'è anche l'elevamento della garanzia oltre 250.000 dollari. Quindi diciamo il depositante retail, per quanto possa essere suggestionato da quanto accade, può vivere relativamente sonni tranquilli, perché il policy maker ha sicuramente come target quello di cercare di tranquillizzare e di stabilizzare la base di depositi. Ovviamente sappiamo, per come è strutturata una banca, se tutta la sua base di depositi retail va a riscattare il denaro, la banca ha serie difficoltà di liquidità. Ecco, però in questo momento, e non solo in questo momento, diciamo è strategico per i policy maker ripristinare la tranquillità dei depositanti. I depositanti sono assicurati in alcuni casi formalmente, là dove non lo sono stati, come negli Stati Uniti, di fatto sono stati salvati. Washington Mutual aveva quasi 200 miliardi di dollari di base di depositi e sono stati passati pari pari a JP Morgan, no? Perché poi ha un grande valore il franchise dei depositi per una banca, è uno dei goodwill principali, quindi c'è anche interesse nell'industria ad acquisire una base di depositi. Quello che stiamo vedendo oggi non è tanto il rischio di una corsa allo sportello retail, ma come ci insegna il recentissimo caso di Fortis, che ha avuto un'iniezione di capitale la settimana scorsa dai governi belga, olandese, lussemburghese, e in una settimana è andata in una gravissima crisi di liquidità, e che la corsa allo sportello del 2000, se possiamo ritenere parata o protetta l'ipotesi del depositante, perché il depositante razionale non deve andare a ritirare i suoi soldi allo sportello, è la corsa delle altre banche che non rinnovano il credito, è la corsa del mercato finanziario a breve. Parlavamo prima del commercial paper, il money market fund, che in questo momento non finanziano, e quindi una corsa allo sportello, diciamo cosiddetta wholesale, che riguarda i grandi operatori che finanziano strutturalmente le banche nella parte più a breve della struttura di funding. E questa è una situazione molto critica, però come tutte le situazioni critiche, anche le malattie delle persone fisiche possono essere affrontate, possono essere, se non guarite, almeno curate, no? Quindi stiamo vivendo un'escalation di interventi. Prima citavo l'esempio della discussione in UK circa la ricapitalizzazione delle banche, perché una gravissima crisi finanziaria bancaria come quella svedese, che ha riguardato parecchi punti percentuali di PIL in termini di perdite e ha fatto fallire le banche più importanti del paese, ha visto attraverso la nazionalizzazione e la ricapitalizzazione di fatto un'uscita in tempi relativamente ragionevoli da quella crisi finanziaria. Anche il provvedimento che il Congresso ha recentemente approvato negli Stati Uniti è un provvedimento, per quanto eccezionale, che nella storia ha dei precedenti, perché le grandi crisi bancarie purtroppo sono ricorrenti, perché l'uomo è avido. E tra l'altro gli Stati Uniti hanno avuto a che fare proprio anche con una grave crisi riguardante un pool di banche molto importante, quella delle casse di risparmio, e anche in quel caso il governo, insomma, lo Stato dovette intervenire con l'emissione di fondi molto, molto importanti. E lì fu proprio il padre di Bush a firmare il provvedimento. Ma se andiamo più indietro, questa è la crisi dei savings and loans, nella Grande Depressione fu costituita un'agenzia pubblica che aveva lo stesso scopo dell'attuale intervento del Tesoro americano, quello di comprare gli asset illiquidi. Quindi purtroppo, dicevamo, abbiamo precedenti, perché si creano le bolle immobiliari quando le condizioni di credito sono troppo accessibili, troppo facilmente accessibili, e si allentano i cordoni della borsa da parte delle banche, che sono convinte di poter guadagnare dal rialzo continuo del prezzo delle case, e sia la crisi della Grande Depressione che poi la crisi del Giappone, per esempio, degli anni 90, quella svedese di cui abbiamo parlato, hanno sempre avuto la stessa radice: grandi crisi immobiliari e una grande bolla del credito che scoppia. Però abbiamo dei precedenti di interventi che, in termini di costo per l'economia, però hanno consentito di evitare una involuzione del sistema capitalista. Certo. Tra l'altro stavo controllando nel frattempo la borsa e vedo che qua il quadro sta cambiando di nuovo, quindi volatilità ancora alle stelle, si sta portando in territorio positivo anche Piazza Affari grazie ai recuperi di Tenaris, Intesa più 4, Alleanza più 1,86. Massimo Fuggetta, non mi sono dimenticata di lei, ma ci sono molti ascoltatori che si stanno chiedendo invece a Telecom che cosa sta accadendo questa mattina. Negli ultimi giorni, insomma, il mercato aveva un po' trascurato questo titolo, ma poi non più di tanto, perché è scivolato sotto un euro. Stamattina è scivolato anche sotto i 90 centesimi. A cosa dobbiamo questa perdita del 5%? Ma non credo ci siano notizie oggi che possano specificamente spiegare cosa sta succedendo. Certamente la televisione di Telecom la conosciamo, è un'azienda in difficoltà, nel senso che ha sbagliato diverse strategie, per cui adesso si trova in una situazione difficile da gestire. La perdita di oggi non credo che abbia ragioni particolari, salvo appunto il tema del reintegro delle garanzie da parte dell'azionista di controllo di Telco. Sì, possibile sia questo. Sì. Beh, diciamo che le agenzie dicono questo. In ogni caso, oggi Telecom di nuovo pesantemente penalizzata a Piazza Affari. Però ritornerei anche ai temi di mercato e alle domande degli ascoltatori. Allora, mettiamo insieme Giuseppe da Messina e Silvio da Milano. Giuseppe, benvenuto. Buongiorno a tutti. Senta, volevo chiedervi un'informazione. Io ho delle obbligazioni d'Exia. Noi sappiamo che grossi gruppi bancari europei sono stati salvati ed in parte anche nazionalizzati, come nel caso di Dexia. Ora, se questi grossi bancari europei sono stati salvati e nazionalizzati, possono per legge dire a tutti noi che siamo, diciamo, coloro che abbiamo le obbligazioni Dexia, c'è chi ce li ha, Commerzbank, potrebbero dire abbiamo, anche se siamo stati salvati e nazionalizzati, per legge non abbiamo problemi di liquidità perché siamo in crisi di fatto, anche se siamo stati salvati e nazionalizzati, e quindi non possano assolvere gli obblighi di pagamento cedole o rimborso capitale in caso di scadenze? Ovvero, siamo stati salvati e nazionalizzati in parte, come nel caso di Dexia, altri no, però possono anche non adempire, pur essendo stati salvati, a questi obblighi per legge? Questo volevo sapere. Giuseppe, diciamo che questo è un periodo in cui le leggi vengono modificate anche in corsa, insomma, una nazionalizzazione non è esattamente ovviamente una liquidazione per una società, tutt'altro, per cui però ecco, Dexia è un caso forse in questo momento dopo Fortis più problematico in Europa. Emilio Franco. Ma la situazione è questa: da qui a fine anno scadono e debbono essere rifinanziati circa 250 miliardi di euro di obbligazioni bancarie. È essenziale che il rifinanziamento avvenga, magari avverrà a tassi penalizzanti, magari avverrà per orizzonti temporali molto più bassi di quelli che sarebbero ottimali rispetto alla struttura di asset delle banche. Però questa è un'altra priorità, no? È priorità ancora una volta per chi fa la politica economica. Quindi io penso, e lo stiamo vedendo per esempio con l'intervento dell'Irlanda, che è assolutamente strategico riuscire a tranquillizzare gli investitori in obbligazioni bancarie, perché sono la fonte del finanziamento che rende funzionante il sistema bancario e ne può impedire il collasso. E quindi in America abbiamo avuto due casi recentissimi con Lehman e con Washington Mutual di creditori senior, no, che si sono visti fallire la banca. È stato un grave errore da parte delle autorità di politica economica, e probabilmente se tornassero indietro almeno Lehman non la farebbero fallire più. Io credo che in Europa, tra le misure concertate di cui abbiamo bisogno, ma che sono convinto perché se ne legge che siano in discussione in questo momento, c'è la volontà di proteggere, di dare, no, posto che sui creditori non c'è, sui depositanti non c'è assolutamente questione sul fatto che debbano essere protetti, che questa garanzia deve essere estesa nella struttura di passività delle banche anche ai creditori, almeno a quelli più senior, perché questo è fondamentale per riuscire a sbloccare questa situazione. Se mai sia dovesse una Dexia fare default sul suo debito, e questo avrebbe delle conseguenze catastrofiche per tutto il sistema bancario europeo, perché riporterebbe al centro della scena appunto il rischio di default di un'istituzione bancaria di questo genere, e ci troveremo con un buco nell'ordine di quei 250 miliardi di euro per fine anno che non sarebbe più colmato. Per non parlare poi di quello che è la necessità ordinaria di finanziamento di un sistema bancario come quello europeo per il 2009. Quindi insomma, quello che possiamo dire a Giuseppe è che al momento non abbiamo elementi tali da poter dire che Dexia non adempia al suo dovere e pertanto i creditori verranno regolarmente rimborsati. A meno che insomma non succeda qualcosa di assolutamente straordinario. Una sola cosa però ricorderei: come mai tanti, diciamo, investitori, ascoltatori si trovano con portafogli, con titoli Lehman, titoli Morgan Stanley, titoli Dexia, titoli Fortis? Perché nella fase della ricerca del rendimento spesso si è dimenticato che c'è una regola aurea della finanza che associa il rischio al rendimento, e quindi i rendimenti più alti si acquisiscono là dove ci si assumono dei rischi un pochettino più alti. Il problema è che forse io non ho assoluta certezza che questi prodotti siano stati venduti in quest'ottica, ma forse perché insomma venivano comunque venduti, sono stati venduti anche come prodotti largamente garantiti e quasi assolutamente protetti, pertanto non credo che molti ascoltatori abbiano esattamente compreso cosa ci fosse dietro poi ad un investimento di questo tipo, ma questo è un altro problema. Eccoci ancora a Salva Danaio, lo Stato francese pronto ad aiutare le banche transalpine se necessario acquistando una quota del loro capitale, lo ha spiegato il presidente francese Sarkozy al Consiglio dei Ministri. Secondo quanto riportato dal portavoce dell'Eliseo, Sarkozy ha sottolineato che non intende abbandonare le banche francesi, che è preparato ad aiutare quelle che dovessero trovarsi in difficoltà attraverso una partecipazione al capitale. Ancora qui insomma comprendiamo come in Europa si continui ad andare in ordine sparso. Marco, volevi... Posso invitare i nostri ascoltatori a leggersi l'intervento di Marco Nado oggi sul Sole 24 Ore, che sulla disorganizzazione degli interventi europei chiarisce alcuni punti assolutamente chiari, quindi il Sole 24 Ore in edicola vi darà l'opportunità di approfondire questo punto importante, perché il meno 9-8% della borsa di ieri, diciamolo, è la reazione a un G4 che in cui quattro persone hanno detto cinque cose diverse. Esatto. Insomma, gli interventi dovrebbero essere non solo azzeccati, giusti, ma anche coordinati, perché sennò non avrebbe senso garantire le banche francesi e non quelle inglesi o non quelle tedesche, perché sennò si creano dei fenomeni di arbitraggio. Io mi sposto di qua e mollo queste cose, altre cose di là, che non sono assolutamente pertinenti in un'Europa unita. Unita. Sento le domande degli ascoltatori, poi ve le distribuisco per le risposte. Allora, Silvio da Milano che aspetta da tantissimo. Silvio, buongiorno, benvenuto. Sì, pronto, buongiorno. Ci dica e qua, soprattutto abbassi la radio cortesemente, perché abbiamo un ritorno che ci... Grazie. Ecco, il mio problema è questo qua, come di tanti, penso. Io ho dei titoli in borsa e purtroppo ci sto perdendo tantissimo. Solo che uscire adesso vuol dire la perdita, praticamente consolidarla. E a questo punto non so neanche io cosa fare, ecco. Però vorrei sapere una cosa. Vista la situazione, non c'è un settore, al di là del singolo titolo che magari non potete fare il nome, ma un settore che in questa situazione può avvantaggiarsi, o in eventualmente un settore che, anche se la borsa si dovesse un po' riprendere, dà quella marcia in più, ecco, un qualcosa dove aggrapparsi. Silvio, molto molto bella la sua domanda, lasciamo riflettere i nostri ascoltatori, andiamo intanto anche a Mario da Roma. Mario, benvenuto. Buongiorno. Ci dica. Volevo chiedere questo, io ho depositato i miei risparmi sul conto Arancio, ecco, vorrei sapere che opera in Italia ma la gestione è di una banca olandese, sì. Ecco, vorrei sapere che tipo di garanzia c'è per chi appunto si trova nella mia situazione. Mario, sì, no, ma come si trovano anche molti altri risparmiatori che magari invece di scegliere i prodotti di investimento più o meno complicati, insomma, decidono di mantenere il proprio denaro in un conto di deposito, quindi avere la liquidità sempre disponibile. L'ultima, quella di Guido da Taranto, e poi rispondiamo a tutti. Guido, benvenuto anche a lei. Buongiorno, grazie per aver chiamato. Informazioni, i conti correnti, i depositi presso il Banco Posta. Sì. Hanno un tipo di garanzia equivalente o maggiore rispetto alle normali banche? Grazie Guido. Allora, cominciamo con la prima, quella di Silvio da Milano. Insomma, lui è un investitore nel mercato azionario, ovviamente in perdita in questo momento, anche se ovviamente per potergli dare dei suggerimenti o comunque per leggere un po' meglio nelle pieghe del suo investimento bisognerebbe conoscere esattamente com'è composto. Però cominciamo con Massimo Fuggetta. Lui dice, insomma, ma è possibile che non c'è nessun settore che in questo momento si salva, anche quelli più tradizionalmente difensivi? Abbiamo visto come stiano andando a picco, questo per esempio in questi ultimi giorni, un ribasso generato anche dal ribasso del prezzo del petrolio, quel tema che in qualche settimana fa, qualche mese fa avremmo accolto tanto volentieri, l'attenzione sul petrolio che si andava tranquillizzando, in questi giorni è stato visto anche come fattore di ulteriore penalizzazione in certi ambiti. C'è un settore, Fuggetta, che a lei piace in questo momento, sul quale scommetterebbe un po' più di altri? Allora, come aveva spiegato bene Emilio Franco, la situazione critica in cui, grazie ai problemi del settore finanziario, stiamo versando ha creato una situazione di panico che io definirei una bolla negativa, cioè così come nel 2000, nel 99, nel 2000 si è creata una bolla speculativa in seguito all'avidità delle persone e l'entusiasmo di investire in titoli che poi non hanno mantenuto le promesse. Invertendo questo meccanismo, adesso siamo in preda ad un panico che sta buttando giù le valutazioni di società che invece meritano dal punto di vista fondamentale prezzi molto più alti di quelli che vediamo oggi. Per cui io dal punto di vista dell'ascoltatore non mi focalizzerei su un settore in particolare, ma riprenderei il discorso canonico che va fatto sempre, cioè dell'investimento dell'orizzonte temporale, perché se l'orizzonte temporale è giusto, mantenere i titoli che si hanno e investire la liquidità eventualmente disponibile al momento è la soluzione migliore. Sentiamo Emilio Franco, anche se invece ha dei suggerimenti per Silvio da Milano. Beh, indubbiamente nel merito del portafoglio non possiamo entrare, non abbiamo elementi per farlo. Io aggiungerei quello che diceva Massimo, sicuramente qui subentra l'investitore professionale, mai come in questa fase la diversificazione paga, così come la diversificazione del rischio di credito nel caso di un portafoglio obbligazionario che non fosse solo Lehman o solo Dexia, quindi magari attraverso un fondo corporate che magari ha 200 emissioni in portafoglio e quindi riduce moltissimo il rischio che una di queste vada a gambe all'aria, a maggior ragione nell'investimento azionario in cui il rischio idiosincratico è altissimo, no? Legato ai risultati di una società, ad un annuncio, a un manager che se ne va, ad un prodotto che è un flop, un altro che sfonda. E questo richiede, per ridurre l'effetto, no, che può colpire un singolo titolo che pesa molto nel portafoglio, una buona diversificazione. Quindi questo è il primo punto. Quindi forse l'obiettivo di Silvio è recuperare abbastanza rapidamente, magari con un settore che può crescere in tempi rapidi, tutte le perdite che ha dovuto subire recentemente con il mercato azionario. Questo lo capisco, però secondo me, comunque, come facciamo noi quotidianamente, è necessario sempre fare una revisione del proprio portafoglio e domandarsi se le ragioni fondamentali, se ci sono, come le valutazioni di cui parlava Massimo Fuggetta prima, e le prospettive di crescita, il posizionamento competitivo delle società sono ancora presenti e giustificano l'investimento, o se non dovesse essere cambiate con le circostanze questo posizionamento, talvolta si può anche decidere e si deve decidere di ridurre delle posizioni che sono in perdita. Nuovamente è probabile in questo momento che vi siano delle grosse opportunità di investimento in generale nei vari settori un po' più prudenti come i settori che si occupano della cura delle persone, no, quei beni di cui non possiamo fare a meno, che vanno dal sapone al deodorante, o i farmaceutici in alcuni casi, anche se l'area euro è abbastanza scarica di titoli del genere, e nella componente un po' più rischiosa, per prendere la seconda parte della domanda, perché poi vuole anche il peperoncino oltre alla difesa del capitale, magari la tecnologia in questo momento in alcuni grandi nomi offre bassissimo debito, zero debito, elevati cash flow, e in alcuni casi in Europa, nell'area euro, in alcune società tedesche o finlandesi, dei posizionamenti competitivi di leader mondiali. Quindi vedo che Franco si diverte tanto, parlerebbe ancora a lungo con noi, però dobbiamo ridare invece spazio alle domande dei nostri ascoltatori. In realtà stiamo chiudendo, ma dobbiamo esaudire le richieste di Mario da Roma e Guido da Taranto. Allora, Marco Lo Conte, Conto Arancio, aderisce al fondo interbancario di tutela dei depositi nel nostro paese, per cui il nostro ascoltatore è garantito almeno fino a 103.000 euro. Esatto, loro aderiscono al fondo olandese che garantisce fino a 20.000, fino a 103. Che è la garanzia minima europea, esatto, diciamo. Esatto, fino a 103.000 e 291,38 euro scatta la garanzia italiana, per cui il conto di risparmio, Conto Arancio, ha le stesse garanzie dei conti correnti, tra virgolette, tradizionali, come quelli online o telefonici. Tra l'altro, se non ricordo male, proprio ieri hanno deciso un aumento della remunerazione sui conti di deposito, i signori di ING, per cui stanno cercando di tranquillizzare anche attraverso questo modo, insomma, i propri depositanti. Ma questo è un altro aspetto. Vorrei invece Banco Posta, che non aderisce al fondo. No, perché le Poste non sono una banca. Esatto. C'è una garanzia di fondo, ossia le Poste sono di proprietà dello Stato, emettono prodotti di cassa, depositi e prestiti, che è di proprietà dello Stato. Il garante di ultima istanza sostanzialmente è il Tesoro italiano, per cui scatta una garanzia automatica su Banco Posta, che pur essendo SPA, per diverso tempo si è anche parlato della possibile quotazione in borsa, ma non è una banca, anzi c'è una discreta competizione con gli istituti di credito. Però, insomma, abbiamo citato due casi secondo noi da cui stare assolutamente tranquilli. Franco, 10 secondi, non le posso dare di più. Voleva concludere su questi aspetti toccati da Marco Lo Conte. No, dico giusto su Banco Posta, no? Nuovamente le banche in questo momento sono in crisi, per quale ragione? Perché hanno prestato troppo aggressivamente a fronte di attivi che si sono dimostrati valere molto meno di quanto si pensava. Beh, comunque l'attività di un'istituzione come le Poste è molto meno bancaria dal punto di vista dei prestiti, no? Quindi il rischio di credito è molto più basso di quello di una banca. Grazie molte, grazie ad Emilio Franco, a Marco Lo Conte, Massimo Fuggetta. Devo chiudere rapidamente, ma su questi temi, come sapete, torniamo anche domani. Da Deborah Rosciani, buona giornata.